Aiwan riprese a leggere i fogli che gli aveva dato Enlan. Quello dunque era il motivo per cui ero in prigione. I giorni si susseguivano in catena infinita, in un estenuante alternarsi di luce e di buio, perdetti la nozione del tempo, e non avrei saputo dire più da quante settimane e mesi fossi detenuto. Non avevo amici e nessuno venne a visitarmi. Miss Maitland, come seppi dopo, ci si provò, ma le fu risposto che mi avevano mandato a casa, il che le fece credere che fossi in salvo. Non c'era neanche più motivo di parlare ancora al carceriere, non avevo ormai più denaro. Passavo le mie ore seduto, oppure in piedi, col viso appoggiato alle sbarre della finestra, fissando quel pezzo di cielo lassù, rievocando fino ad averne il capogiro tutto quel che avevo scritto nel mio saggio. L'avevo scritto in una bella giornata di primavera, quando i venti sono tiepidi e c'era gran vendita di fiori al mercato. Le strade erano animatissime, sfrecciavano auto in tutte le direzioni, i rickshaw lasciavano loro il passo con improvvisi scarti. Ricordo che più di una volta mi ero fermato ad ammirare la rapida bellezza di un'auto in corsa sull'ampia via. Nel pomeriggio, dopo la scuola, ero uscito fuori porta per una passeggiata, indugiandomi ad ammirare la verde campagna. Avevo il cuore pieno di cose grandi, inesprimibili, era come una nostalgia dell'amore. Non dell'amore per una ragazza, non conoscevo ragazze, ma per il mio paese, per il paese che mi si stendeva davanti e che lassù, nel lontano nord, comprendeva pure il mio villaggio, mentre nel sud era bagnato da mari che non avevo mai visti. E così rimirando, quel vasto amore cominciò a concretarsi in parole. Volevo esprimere i sentimenti che provavo per il mio paese. Le parole mi cadevano come gocce da una nebbia luminosa. Tornai in fretta alla mia cameretta e cominciai a scrivere, parola per parola, quella che era stata la mia visione. Non fu compito facile. Ricordo che lo sforzo di esprimere esattamente quel che avevo veduto e sentito mi fece letteralmente sudare. Avevo acceso una candela e scrivevo alla sua fievole luce. Fuori la città scintillava di luci elettriche ed insegne al neon, ma io ero troppo povero per permettermi una camera in una casa fornita di luce elettrica. Non importava, ero orgoglioso che la città rutilasse così di fosforescenze elettriche. Se non fossi stato occupato in camera mia, sarei uscito ad ammirare lo spettacolo notturno di Shanghai, mai sazio delle sue meraviglie. Nel mio saggio descrissi le luci elettriche e tutta la città, la forte, nuova città che sorgeva dal mare. Ricordai le automobili, gli autocarri pieni di carichi che una volta erano stati trasportati su spalle umane, e poi le scuole, i bei mercati, gli splendidi frutti di importazione, i fiori nelle botteghe dei fiorai e nelle serre. Sorridendo ricordai gli istituti di bellezza dove le donne si facevano arricciare i capelli. I superbi edifici più belli dei palazzi degli imperatori, la vasta campagna, i campi, i cieli che avevo ammirati quel pomeriggio e finalmente deposi la penna. Quando rilessi quello che avevo scritto, trovai che non avevo ancora messo in esso tutto il mio paese. C'era anche, infatti, il mio villaggio natio. C'erano mio padre e mia madre, gli aridi campi del settentrione, i venti del deserto, la carestia, che avevamo sofferto un paio d'anni innanzi, i piccoli tuguri di terra, l'oppio che coltivavamo in luogo del frumento, speranzosi di guadagnare qualche soldo di più, ma c'erano anche le tasse. Le tasse servivano al governo. Anche di esse parlai e meditando su tutte quelle cose fui persuaso che non tutto il gettito delle tasse era bene speso. Tutt'altro. E mi venne da desiderare, rievocando nelle immagini, che i miei genitori e la povera gente del mio villaggio non fosse così cotta dai venti impetuosi, che i loro corpi non fossero così magri e denutriti, che le loro mani fossero meno incallite dalla bestiale fatica di grattare il terreno alla ricerca di cibo e di combustibile. E così ricordai anche questo. E ancora non bastava. Non potei infatti trattenermi dal far voti affinché il nuovo illuminato governo di Sun Yat-sen trovasse il modo di far partecipe il mio villaggio ai benefici dei tempi nuovi, se le tasse fossero state un po' diminuite, se si fossero costruite alcune nuove strade, non grandi autostrade come quelle che si irradiano dalla città, ma semplici strade di terra sufficienti per permettere il passaggio di un asino e di una carretta. Se questo fosse stato fatto, la poveraglia di laggiù Non avrebbe avuto più bisogno di coltivare l'oppio né di soggiacere a tante tasse. Ripensandoci in prigione, mi convinsi che era stato questo che mi aveva tirate le collere dall'alto. Ecco perché mi chiamavano traditore. Non ci avevo mai pensato. Io avevo scritto del mio paese quello che avevo sinceramente sentito. Prima di esprimere i miei pensieri in inglese, avevo buttato giù di primo getto le mie pagine in cinese. Solo dopo, orgoglioso dell'opera mia, mi azzardai a voltare lo scritto in inglese. Le autorità avevano letto la mia traduzione inglese e mi avevano fatto oggetto della loro ira. Ecco, ci arrivai lentamente, ma ci arrivai. Ecco il mio delitto. Avevo scritto il mio saggio in inglese e loro se ne erano vergognati. Avevo detto tutto del mio villaggio e della mia gente, e loro, quelli che erano al governo, non amavano che lo straniero sapesse di tasse sull'oppio, di carestie e di tuguri di terra. Se mi fossi limitato a scrivere in cinese, se non avessi tradotto tutto quanto in inglese, ma chi poteva pensare a quelle sottigliezze in una così splendida giornata primaverile? Stentavo tuttavia a credere, anche in prigione, che fosse successo quel che era successo. Ogni mattina mi levavo d'umore diverso, ma le notti erano sempre uguali. Ero disperatamente solo, avevo disperatamente paura. La mattina, guardando il frammento di cielo lassù, pensavo: ma una cosa simile non può succedere in questi tempi nuovi, questo è impossibile. Oppure pensavo: alla peggio mi hanno semplicemente dimenticato, la mia ora verrà, non è credibile che al giorno d'oggi non si possa avere giustizia. Il nostro codice è dei più moderni e illuminati. Così avevo imparato a scuola. Ma nulla accadde. Per molto tempo. Assolutamente nulla. Finché un giorno la cella cominciò a ricevere nuovi ospiti fino a esserne piena. La caccia ai rivoluzionari aveva dovuto essere accanita. Tutti i giorni la cella era riempita e la sera si vuotava. Le notti erano orribili. Gli arrestati a tutta prima avevano paura, bestemmiavano. Poi, avvicinandosi l'alba, cominciavano a piangere e a gemere. In principio parlavo con quei disgraziati e furono quei discorsi a farmi diventare un rivoluzionario. Sentii infatti parlare di opere in pro del popolo, di persecuzioni scatenate solo perché si era tentato di ottenere paghe migliori per gli operai delle fabbriche e per i commessi dei negozi. Alcuni erano stati arrestati sotto l'accusa di aver cercato di far evadere ragazze dai bordelli ai quali erano state vendute. Altri ancora, semplicemente perché, ansiosi di rigenerare il paese, avevano aderito a un gruppo di patrioti come il nostro. Mi persuasi che, sì, il governo aveva avuto torto di compiere tutte quelle persecuzioni. Quei giovani, molti erano più giovani di me e di te, non avrebbero mai dovuto essere arrestati. E guardandoli andare al supplizio, mi prese un tale odio per coloro che li condannavano a quella fine ignominiosa che giurai vendetta se fossi riuscito a evadere. Quando tu arrivasti ero già un rivoluzionario d'oltranza. Non parlavo più con nessuno. La cella si fece indicibilmente sordida e lorda, ma non mi importava più di nulla. Non potevo dormire. Anch'io vegliavo la notte in attesa dell'alba. Poi, quando la cella era ancora buia, ecco lo stridore di una chiave nella toppa e una striscia di luce proiettarsi nella nostra oscurità. Una voce rauca faceva l'appello dei predestinati al supplizio. Erano tutti, meno io. Aspettavo di giorno in giorno col cuore stretto, madido di sudore di essere chiamato io pure, ma nessuno mi chiamò mai, semplicemente mi avevano dimenticato. La striscia di luce era fatta passare dall'uno all'altro dei miserabili rinchiusi nel carcere, quasi tutti piangevano, mentre l'aguzzino poneva loro le manette. Dopodiché erano incolonnati per un corridoio. Io fui sempre l'unico risparmiato. E mi toccò restare a guardarli consapevole del loro destino. Li vedevo con l'immaginazione uscire, respirare l'aria improvvisamente pungente sui loro visi. Fuori era ancora buio e nel buio mani sconosciute li avrebbero spinti alla rinfusa contro un muro di pietra. Poi sarebbe seguito un grido, poi ancora una scarica davanti agli occhi degli infelici, i quali sarebbero caduti alla rinfusa come cenci. La frase inglese continuava a frullarmi per il capo. Solo vagai come una nuvola. Avrei voluto gridare e dire qualcosa a quegli infelici. Mi pareva di morire ogni giorno con loro, obbligato da tutti, finché un giorno arrivasti tu con gli altri. Aiwan aveva continuato la lettura fino a tarda ora. Aveva riletto molte di quelle pagine e non si decideva a bruciarle. Quanto aveva scritto in Lan costituiva un documento prezioso. Finalmente ripiegò i fogli e li ripose nel cassetto, ben nascosti sotto alcuni vecchi libri regalatigli dal nonno e che egli non aveva mai letto. Ma le confessioni di Enlan gli erano rimaste fortemente impresse. Enlan gli aveva davvero dato una parte di se stesso, ma lui, Aiwan, che cosa mai avrebbe potuto dargli in cambio? Rimase sveglio fino a tardi, rimuginando fra sé. Che cosa avrebbe potuto dare a Inlan? Ma non gli riuscì di pensare a nulla che fosse veramente degno dell'amico, salvo il proprio sangue e lo spirito della giurata fraternità. Il giorno seguente rivide Inlan, ma non gli parlò di quanto aveva letto. Gli parve del resto che l'amico fosse un po' in soggezione dopo l'ampia confessione scritta. Perciò, senza parlare del suo racconto, gli domandò: accetti di essere legato a me dalla fraternità del sangue? L'espressione di timidezza svanì di colpo dagli occhi di Enlan. Sì, accetto, disse. Si rifugiarono entrambi nella camera di Enlan e lì, con rituale solennità, si fecero rispettivamente sprizzare sangue dal braccio e lo lasciarono colare in un rivolo unico. Una stretta di mano e un tacito giuramento conclusero la sbrigativa cerimonia. Nessuno ne parlò più, ma furono legati l'uno all'altro per la vita e per la morte. Così, in forza di quelle vicende, Enlan era segretamente diventato un rivoluzionario e con lui Aiwan, ligi entrambi alla causa che li faceva partecipare con altri alle segrete riunioni in un'aula deserta dell'università. Un giorno, durante una riunione, Aiwan fu scosso dalle sue fantasticherie da Enlan, il quale, levatosi a parlare, disse: «Ci è stato dato l'incarico di organizzare il quartiere dei setifici nella parte settentrionale della città. Ecco i nomi delle fabbriche nelle quali dobbiamo particolarmente operare». E ne lesse un elenco, un nome dopo l'altro. Aiwan conosceva quei nomi soltanto per sentito dire, non essendosi mai spinto nei quartieri di Shanghai, dove migliaia di uomini, donne e bambini lavoravano nei setifici. «Tu, Aiwan», disse Enlan, «prenderai la sezione più distante, la fabbrica Tatuan, visto che hai i mezzi per noleggiare un rickshaw risparmiando una lunga camminata. Coloro che devono andare a piedi possono invece occuparsi degli stabilimenti meno lontani». Enlan continuò spiegando ai compagni riuniti come si poteva far propaganda rivoluzionaria nelle fabbriche, così da preparare le masse al giorno in cui il governo sarebbe stato rovesciato e il nuovo regime sarebbe stato instaurato in sua vece. Il piano, come risultò dall'esposizione di Enlan, era razionale e sensato. Aiwan pensò ai villaggi di cui era stata fatta menzione nel racconto scritto di Enlan e alla proposta, che pareva un grido, di esentarli dalle tasse e dalla necessità di coltivare oppio. E se, pensò, la gente delle fabbriche era così esasperata come Enlan l'aveva dipinta, ebbene, essa meritava di essere aiutata per il raggiungimento di migliori condizioni di vita. Fu felice di aver ricevuto quell'incarico e prese gli ordini che gli vennero impartiti con la stessa prontezza e buona volontà di tutti gli altri suoi compagni. In tutta la Cina, donne e giovani ricevevano ordini analoghi, sistematica preparazione per il giorno che sarebbe venuto, il giorno dell'universale speranza. Peng Liu comparve in quel momento di corsa. «Arriva qualcuno!» esclamò. Un rumore di passi veniva dalla scala. «Via!» gridò Enlan. Tutti si sparsero come per una ventata, ma Aiwan, pure allontanandosi anche lì di corsa, notò un particolare strano. Peng Liu non correva come gli altri. Rimase invece nell'aula come in attesa di qualcuno. Un minuto dopo, eccolo richiamare i compagni con un sorriso che pareva una smorfia. «Falso allarme!» Si trattava soltanto del falegname che arrivava per certi lavorucci, così la seduta era stata ripresa e Aiwan si dimenticò di pensare oltre a Peng Liu. Tanto più che Peng Liu era una figura di cui ci si dimenticava più che non la si ricordasse, una figura scialba e meschina, apparentemente innocua. Nessuno mai pensò di affidargli un compito particolare, salvo quello del guardiano spia. Aiwan, del resto, fu lieto di non dover più pensare a lui perché francamente non gli piaceva. Da quel giorno cominciò per Aiwan una vita nuova. Che hai per essere così indaffarato? Gli domandava il fratello Aiko. Sei in qualche pasticcio? Aiwan ora rientrava così tardi che più di una volta era capitato che Aiko lo avesse preceduto. Quella notte aveva incontrato il fratello sui gradini del portone d'ingresso. Aiko balzò dal suo elegante rickshaw privato e guardò il fratello con un'espressione di dileggio negli occhi. A piedi? Esclamò. Arrivi a piedi, come un bracciante qualunque? Non sapevo che avessi preso l'abitudine di fare a meno della carrozza. Aiwan, infatti, insensibile al riguardo usatogli da Enlan, ci teneva a uscire ogni giorno dopo la scuola vestito della vecchia uniforme e con le scarpe mal lucidate e a spingersi a piedi fino al setificio assegnatogli come zona della sua propaganda. Non rispose ad Aiko ed insieme salirono le scale di casa. Aiwan aveva nelle nari il pesante profumo moschiato della brillantina di cui Aiko faceva grande uso per tenere lisci e composti i lunghi capelli neri. Era di moda, tra la dorata gioventù che Aiko frequentava, farsi crescere i capelli fino a che, spazzolati all'indietro, raggiungessero il collo e di tenerli sempre ben lisci e oleati. La moda era stata lanciata da certo giovane poeta molto di moda, il cosiddetto Byron cinese, della cui conoscenza Aiko era orgogliosissimo. Si chiamava Tse Li. E ad Aiko non pareva vero di poter dire Tse Li è Dio? Oppure oggi ho detto a Tse Li? Era una gara chi leggeva di più i versi di Tse Li e anche Aiwan li lesse, ma con scarso, anzi nessun entusiasmo. In essi non si parlava che di morte, di fiori, di fughe tra le nebbie, dei colli trafitti di bambù, dove c'era sempre una donna in attesa. Aiko riprese: Faresti bene a non andare in giro da solo. Potresti essere rapito. Tutto può succedere oggigiorno. E la spesa per il tuo riscatto sarebbe forte. Certo di gran lunga superiore al tuo reale valore, aggiunse scherzosamente. Scherzi a parte. In quel tempo turbato dalla ventata rivoluzionaria, i rapimenti erano davvero tutt'altro che rari. Il padre banchiere aveva avuto la precauzione di assoldare due gigantesche guardie russe che lo seguivano come ombre dovunque egli andasse. I due angeli custodi tenevano sempre le mani in tasca sulle rivoltelle, imitati in ciò dal tiratore di rickshaw di Aiko, un soldato il quale non si separava mai dall'arma, nemmeno lui. Più il mio aspetto è povero, tanto meglio è per me, rispose Aiwan. Non dubitare, i rapitori sanno il fatto loro, lo stesso, replicò Aiko. Entrarono. Nell'atrio, dirimpetto all'uscio d'ingresso, Peonia fece capolino di dietro a una tenda e subito sparì. Aiwan sentì la voce chioccia della nonna che chiamava Aiko, Aiwan. Aiko corrugò la fronte, fece spallucce e non rispose. Ceno con Tse Li, borbottò, non ho tempo da perdere con la vecchia. Perché la chiami così quando non ti sente? Osservò non senza sarcasmo Aiwan. Poi, non tanto perché ne sentisse il bisogno, quanto per reazione al sorriso gaglioffo di Aiko, entrò nella stanza della nonna. Vi fece tuttavia una sosta brevissima, che subito tornò in camera e si buttò a giacere sul letto. Tse Li. Tse Li, con quale diritto c'erano dei giovani che in tempi come quelli vivevano come Tse Li? In cuor suo si disse che avrebbe domandato ad Enlan di includere il nome di Tse Li nella lista dei condannati a morte della rivoluzione. Il giovane esteta, tanto amato da suo fratello, gli era odioso. La lista nera era come un'arma nelle mani del gruppo. Nessuno dei componenti del quale si rendeva ben conto che essa in realtà voleva dire un massacro. Fino a quel momento non rappresentava altro che la speranza della vendetta contro gente che essi non potevano che odiare. Quando qualcuno li angariava, fosse un professore o un compagno di scuola o un ministro che non avevano mai incontrato, ma che aveva concluso con l'estero trattati che non riuscivano loro graditi, o un tizio qualunque sospetto di prevaricazione, subito il nome finiva nella lista nera. Così, ad esempio, Peng Liu aveva proposto che fosse segnato con nero lapillo anche il nome del professore di scienze, un inglese, semplicemente perché quello nutriva per lui un'antipatia della quale non faceva mistero. Alzati in piedi, aveva gridato un giorno Peng Liu. Non startene lì accovacciato come un lercio indù. Peng Liu sulle prime non aveva ben capito, ma poi aveva cercato nel dizionario il significato di alcune delle parole che gli erano state rivolte e non aveva esitato a chiedere l'inclusione del nome di Giacomo Ranald, così si chiamava l'insegnante inglese, nella lista nera dei condannati a morte. E Lan però aveva detto con disprezzo: inutile metterci anche nomi stranieri, tanto si sa che quando verrà l'ora tutti gli stranieri saranno ammazzati. Nessuno sapeva quando sarebbe venuta quell'ora, ma declinando l'autunno tutti sentivano che era vicina. Il governo rivoluzionario di Ankao diventava ogni giorno più forte e certo un giorno o l'altro Chiang Kai-shek sarebbe calato lungo la vallata dello Yangtze. E allora, buonanotte a tutti. Nessuno ne parlava a voce alta, ma Yuan ne aveva sentito bisbigliare con ardente speranza fra gli amici del gruppo e a casa con disprezzo dal padre banchiere. Nel gruppo, Elan spiegava che non bastava parlare, bisognava che tutti partecipassero attivamente ai preparativi. Prepararsi, spiegò Elan, significa preparare il popolo, lavorarne le anime e i corpi. Noi che parliamo la lingua del popolo dobbiamo anche prepararne gli spiriti. Tu, Aiwan, dovrai organizzare un battaglione di operai nella fabbrica Tatuan. Non deve essere compito difficile per te che hai un nonno generale e non manchi di istruzione militare. Aiwan, stupefatto, non poté subito articolare parola. Elan lo conosceva, ma come diavolo faceva a sapere che suo nonno lo aveva fatto istruire da un giovane ufficiale tedesco durante 3 estati? Ma poi si era rinfrancato e aveva esclamato con forza: farò quanto mi ordini. Non disse altro per il momento, ma più tardi, incontrando Elan nel corridoio, gli domandò come faceva a sapere che egli aveva ricevuto un'istruzione militare. Elan contrasse il volto nel suo largo sorriso e rispose: facile, a scuola ti vedo compiere meglio di tutti gli esercizi militari, e continuò per la sua strada. Fu così che Aiwan cominciò ad organizzare lo strano esercito clandestino fra i pallidi operai delle officine. Da 2 mesi ormai frequentava giornalmente gli stabilimenti, un compito tutt'altro che facile. L'ingresso nei grandi edifici caotici, da cui usciva il fetido e ardente fiato dei bachi da seta putrescenti nell'acqua fumante, gli era inibito, ma attorno agli stabilimenti erano le baracche di stuoie nelle quali vivevano gli operai. E Aiwan ronzava fra esse in attesa del ritorno della folla dei lavoratori. Uomini, donne e bambini e bambine. A tutta prima li aveva avvicinati con imbarazzo, quasi gli pareva impossibile che si fossero come gli altri, con quel loro passo cadente, con quell'aspetto infermiccio. Tossicolavano, gli occhi cerchiati d'azzurro, le mani rosse e gonfie. Le peggio conciate erano le mani delle donne e delle ragazze, le alzavano, indurite e dolorose. E quando Aiwan le vide per la prima volta non poté trattenersi dall'esprimere il suo stupefatto raccapriccio. Gli rispose una giovinetta sottile, di forse meno di 12 anni. È l'acqua bollente, disse con voce mite. L'acqua bollente? Una vecchia interloquì. I bozzoli, mio giovine signore, devono essere immersi nell'acqua bollentissima per uccidervi dentro il baco e ammorbidire la seta. Naturalmente dobbiamo prenderli con le mani e trovare il capo del filo di seta che poi viene dipanato. L'acqua è mantenuta bollente dall'elettricità straniera e così le nostre mani sono tanto malconce. Quella carne piegata e gonfia gli diede una nausea così forte da paralizzargli la parola. Il primo giorno tornò a casa senza aver concluso nulla. Rientrando pensò: c'è un odore peggiore di quello dell'oppio. È l'odore del setificio. Quella sera aveva detto a Peonia: lasciami sentire quel tuo profumo. Essa gli passò i palmi profumati delle mani sulle guance e sugli occhi. Buono, buono dopo tutto, mormorò Aiwan. Peonia gli posò un palmo sulle labbra e per un attimo egli restò immobile. La piccola mano fragrante gli dava sollievo. La tua mano, mormorò. e come un fiore. Non amava Peonia, ora ne era certo, e sapeva che mai l'avrebbe amata, ma era pur sempre una mano di fanciulla, delicata e dolce, e quella fragranza, quel tocco morbido, gli diedero il senso comune a tutti i giovani di una futura dolcezza. Per un attimo ne ebbe vagamente sete, ma poi scacciò l'idea. Non c'era posto per ragazze, neppure nel pensiero. Il suo pensiero doveva essere tutto e solo rivolto al popolo. Ma Peonia non lo sapeva, né lui avrebbe potuto dirglielo. Ora ella si appoggiava delicatamente a lui ed egli sentì il cuore della fanciulla che gli batteva contro una spalla. Chi era Peonia? Una figura irreale, malgrado tutto. Quel che contava, quello che era infinitamente più tangibile di una mano di fanciulla, fosse pure Peonia, era e rimaneva il popolo. «Non vai ancora a letto?» gli domandò Peonia. Da quella notte che egli l'aveva spinta fuori dalla sua camera, ella anticipava la sua comparsa col tè e subito se ne andava. Egli scosse il capo. «Non star alzato molto», lo esortò carezzevole lei. «Lavori troppo». E di lavorare non hai bisogno, non sei mica il figlio di un povero. Non posso dormire, disse Iwan. Poi pensò, ecco perché non posso dormire, perché sono il figlio di un ricco. Avrebbe voluto che fosse già l'indomani, così da poter aiutare in qualche modo la povera gente che aveva cominciato a frequentare laggiù. Vattene, disse a Peonia, devo lavorare. Ella se ne andò con un sospiro, senza ciliare con lui, come faceva sempre. Quando fu sull'uscio sostò un momento, ma nemmeno allora egli la guardò e lei non si indugiò oltre. Rimasto solo, Aiwan scostò i libri che aveva sul tavolo. Si avvicinò alla finestra e rimase a lungo assorto nel giardino pieno d'ombra. Lo conosceva palmo per palmo, era un giardino celebre per la sua bellezza. Suo nonno e suo padre vi avevano profuso grandi somme di denaro, facendo venire apposta dal settentrione, a nord di Pechino, enormi massi di roccia sgrossati in forme strane e fantastiche. I vialetti erano stati coperti di pietruzze colorate provenienti dalla collina della Pagoda Azzurra, nei pressi di Nanchino. C'erano ruscelli, ponti e un lago sulle cui rive sorgevano minuscoli padiglioni estivi e sulle cui acque galleggiavano barche. Il giardino era cintato da un muro così alto che Aiwan non riusciva a vedere che cosa ci fosse di là, neppure dalla sua finestra. Il giardino non aveva cancello d'ingresso, ma solo una porticciola di servizio per il giardiniere che abitava fuori nelle immediate adiacenze. Egli la teneva costantemente chiusa e non si separava mai dalla chiave. Ecco come ho vissuto, pensò Aiwan, in un giardino chiuso da un muro altissimo. E fissando l'oscurità piena di silenzio, si confermò più che mai nell'idea di abbandonare ogni pensiero di sé.